Kellogg. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Si sa che siamo tutti abituati a certi sapori e posso immaginare che per alcune persone sia difficile abbandonare certi tipi di gusti a cui sono stati abituati e che di fatto posso anche comprendere che magari possono piacere. Quando tu fai una scelta vegan non è che finisce tutto lì, si apre un mondo di novità, i sapori, i gusti e i sensi si aprono, i sensi diventano sempre più aperti, per cui anche la frutta e la verdura crude diventano buonissime. Cosa significa essere vegan? Io lo so bene perché ho una cara persona che segue mio figlio che è vegan, quindi io molte volte la sera mangio cose vegan. Mi piace, è una cosa divertente, sono sapori nuovi, sensazioni diverse, assortimenti e maniere di cucinare abbastanza inconsuete. Ma può diventare questo o diventa questo una ragione di vita, quasi una religione? In molti casi sì, per le persone più esasperatamente vegan, che non mangiano nulla che abbia origine animale, quindi nemmeno latticini, nemmeno derivati del latte, oltre naturalmente la carne, il pesce, ma non so, nemmeno il miele ad esempio, perché le api lo producono per sé, quindi l'essere umano ha diritto di prenderlo. Su questo si può avere le proprie idee, ognuno può pensare come vuole, siamo molto laici. Molte volte ho rispetto di chi segue queste norme di vita anche con sacrificio, perché non è facile la sera farsi l'hamburger di seitan invece che prendersi una polpetta e mettersela sulla piastra, però evidentemente questo ha profonde motivazioni. Ma io prevedo che su questo tema, che in Italia pare che interessi 400.000 persone, almeno oggi la stampa in pagina società mette un articolo proprio sui vegan, perché si prevede che su questa vicenda si aprirà una grossa polemica. Perché? Perché ieri ha vinto la Coppa Volpi, con un importante riconoscimento del Festival del Cinema di Venezia, il film di Saverio Costanzo ha vinto in realtà per la protagonista Alba Rohrwacher, che è la compagna poi Saverio Costanzo, che è Angry Earth, che è la storia di una madre che rischia di mettere a repentaglio la vita del figlio proprio perché lo vuole nutrire secondo questi dettami di vita. Lo fa per salvaguardare la natura, per combattere la devastazione dell'uomo nei confronti della natura, ma questo mette a serio repentaglio la vita del figlio. Ora, questa non è una trasmissione che si occupa di diete, di alimentazione, quindi non voglio analizzarlo in termini scientifici. Non mi interessa in questo momento avere esperti che mi dicano se fa bene, se fa male, se le proteine animali sono indispensabili, o se no mangiandosi anche i surrogati dei vegani si possa vivere bene lo stesso. I vegani mi fanno vedere mostri di salute, uomini da una muscolatura possente, capaci di esercizi ginnici splendidi, e si nutrono anche loro soltanto di vegetali e seitan, quindi ognuno ha il suo punto di vista. Però mi piacerebbe sondare tra il mio pubblico quanti hanno questa regola di vita, che è una regola non facile, perché bisogna guardare attentamente tutte le etichette dei prodotti, capire se c'è qualche prodotto che abbia comunque origine animale. Molte volte sono eccipienti, sono delle cose insospettabili, non è che, chiaro, una bistecca, una coscia di pollo, una trota al cartoccio, è chiaro che si capisce che c'è l'animale. Bisogna guardare nelle etichette per capire se magari esiste un lievito, e il lievito già c'è qualcosa di animale, se è un lievito di origine naturale. Stanno aumentando nei ristoranti italiani i menù vegan, perché chiaramente se uno ha una fidanzata vegan, un fidanzato vegan, un amico vegan, se va al ristorante non è che può ordinare dal pane al dessert, deve stare attento che ci sono delle cose che per questa persona sarebbe fortemente tabuizzante mangiare. Tabuizzante dico perché assomiglia molto alle regole alimentari delle religioni, i precetti religiosi che impediscono alle persone che hanno una profonda fede, una volontà di applicare la fede sul piano del comportamento quotidiano, di mangiare determinati cibi in determinati periodi, in determinati momenti, o proprio di evitare alcuni cibi. Per le religioni è sempre stato ammesso, non si è ancora percepito il mondo vegan come in realtà una nuova religione, si è percepito come una ideologia di vita, come una maniera di vivere in equilibrio con l'armonia della natura, di non avere una complicità nello sfruttamento o nell'uccisione o nel massacro degli esseri senzienti, che vanno da qualsiasi tipo di animale a qualsiasi essere vivente, che però nessuno ha mai visto come una religione, perché se fosse una religione non dovrebbe non scherzarci più su, dice, è la loro religione, è un precetto religioso. 800240024, quanti di voi ogni mattina si svegliano e cominciano a guardare le etichette dei cibi per capire se c'è qualcosa di proibito in ossequio alla loro convinzione di vita? Quanti in realtà hanno avuto esperienze negative da questo tipo di atteggiamento e quindi sono stati vegani per un periodo della loro vita, perché magari devono compiacere la fidanzata vegana, poi a un certo punto in poi hanno deciso di riattaccarsi alle salsicce e alle bracciole. 800240024. Molto spesso ci sono persone che non sanno proprio veramente perché noi facciamo questa scelta e a volte alcuni vegetariani, alcuni vegani la prendono come una provocazione, cioè io a volte mi sento dire da qualcuno sono sempre lì che mi chiedono perché, come mai hai fatto questa scelta, e non è sempre in realtà una provocazione, cioè esiste anche chi vuole provocare, ma non sempre, tant'è che io mi sono ritrovata recentemente dopo un mio corso di cucina organizzato da un'azienda per i dipendenti, mi sono sentita proprio dire: tu mi hai aperto gli occhi su questa cosa, io non avevo mai riflettuto sugli allevamenti industriali, sono molto contenta di aver fatto questa riflessione. E quindi ho pensato, perché non dirlo, no? E chi meglio di chi segue? Mi scrive un ascoltatore: scusa, il lievito non è un animale. Sì, non è un animale, ma evidentemente ciò che produce il lievito viene considerato qualcosa non adatto alle diete vegan, che non bevono nemmeno latte, nemmeno tutti i derivati del latte, e stanno molto attento appunto a non andare contro questo che è il loro dettame. Arrivano i primi messaggi, qualcuno dice: i vegani per me sono paranoici, come una setta, mi fanno paura, a differenza dei vegetariani che sono normali. Cosa vuol dire normale, cosa vuol dire paranoico? Sono termini con cui dobbiamo abituarci agli adeguamenti continui. Quando una pratica di vita, quando una pratica alimentare che è alla base comunque dell'organizzazione del quotidiano di una persona è molto diffusa, comincia a entrare nell'ambito delle pratiche che comunque vadano accettate, perché coincidono e coinvolgono notevolmente la socialità. E sempre più spesso capita di avere persone di questo tipo di osservanza, e sedersi in tavola con loro bisogna ciò corrisponde a una spiegazione dettagliata di ciò che è in tavola, ciò che è cucinato, che non è messo assolutamente nulla che abbia a che fare con latte, non c'è nessun prodotto che abbia in sé una polvere d'uovo, un qualsiasi prodotto che comunque possa essere anche lontanamente adeguato o corrispondente a un'origine animale. E questo naturalmente comincia a essere un grado di attenzione sociale, e quindi non può più essere preso soltanto come una balzana moda del momento, ma bisogna capire, osservare, comprendere, anche perché in molte scuole si comincia a pensare anche alla dieta vegana per i bambini. Ora, che il fatto che il film di Saverio Costanzo sia un film, anche se lui ha preso le distanze, l'avevo cercato, mi sarebbe piaciuto sapere il suo parere, dice chiaramente che con una dieta del genere una madre quasi uccideva i propri figli, e quindi questo si prevede che, visto che sono anche molto agguerriti e molto pronti a difendere la loro posizione, che dal mondo vegan venga una reazione. Andrea, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Gianluca. Ascolto. Allora, volevo dire... dare la mia idea che ho di vegano, che è legata assolutamente a una questione salutare. Lei è vegano, Andrea? Quasi, cioè nel senso... quasi, o tutto niente. Questo, ecco, in questo non c'è una via di mezzo, perché non può essere quasi. Un po' di pesce lo mangio. Io ho visto mortificarsi e star male un vegano perché aveva bevuto per un po' di sere un digestivo e ha poi scoperto che c'era il miele dentro in quantità minime. No, anche miele. E lei non è vegano, se mangia il pesce, no, guardi, non assolutamente. Avevo scritto quasi vegano, nel senso, non sono uno che assolutamente segue alla lettera e ripeto non è per amante. È un po' diverso essere vegani da essere vegetariani. Vegetariani oggi è una grande figata, una grande moda. No, io sono vegetariano, due palle a tavola, c'è sempre quella che è vegetariana, bisogna riordinare due volte. No, però ma io evito anche tutti i formaggi, le uova, la carne ovviamente. Però si mangia il pesce. Un po' di pesce sì, ogni tanto capita. Tutto sommato un goccio di latte, tanto comunque dalla tetta alla mucca esce, cioè, ma il pesce lo ammazza, è un essere senziente, cioè un vegano rabbrividirebbe. Infatti io sono quasi, ripeto, sono quasi vegano per la questione che evito quasi tutte le proteine animali, ma non è come religione, per cui non è legato all'amore incondizionato per gli animali. E allora cosa è dato? Una scelta salutistica, lei pensa ciò faccia bene? Lei ha motivi che pensa che sta bene, che le proteine animali possono dare il cancro, queste cose che dice la gente ogni tanto, cose del genere, o far star male comunque, questo è il senso. Diciamo che ho provato per un periodo a stare senza carne e derivati e si sente meglio in che senso? Continuato, punto. Va bene, ma anche forse, ma secondo me è una questione psicologica, uno si sente più in pace con se stesso e quindi dice non sarò mai complice dello scannamento di un animale, quindi mi fa vivere più tranquillo, sto meglio. Non so adesso se i sintomi di un miglioramento anche dello stato fisico possono essere registrabili, bisognerebbe avere dei misuratori che non fanno parte del background di questa trasmissione. Ci fermiamo un istante e diamo le informazioni del traffico. È interessante che voglio sentire i vegani che diranno della possibilità di essere quasi vegano. Secondo me è paragonabile a un'eresia. Melog, cronache meridiane. La domanda fatidica che fanno ai vegani: ma tu cosa mangi? Come se noi vivessimo d'aria. No, noi mangiamo anche tanto e mangiamo bene. Non ci manca nulla, assolutamente nulla. Adoriamo i sapori e i sapori naturali principalmente. Io ho una dieta che definisco vegana, tendenzialmente crudista, e mi sto spostando sempre di più verso il crudismo. Questa è una mia scelta personale perché ne traggo davvero dei benefici incredibili. Io credo che tutte le proprietà nutrizionali vengono principalmente dalla frutta e dalla verdura crude, per cui mi faccio delle insalatone incredibili con dentro di tutto, dai appunto foglie verdi parecchie, per cui anche rucola, spinacini, piuttosto che magari aggiungo anche dei peperoni, per esempio peperoni colorati, aggiungo pomodori, carciofini, carote sicuramente, pomodorini secchi anche volendo, finocchi, sedano, insomma rapanelli, cioè i colori, è una insalata coloratissima. Molto spesso quando vado nei ristoranti rimango un po' perplessa perché le insalate che vedo sono un po' tristine, e invece bisogna rivoluzionare. 800 24 00 24, stiamo parlando del fenomeno vegan, ne parlo con grande fatica perché c'è questa mattina una latitanza nel nostro centralino, non capisco perché. Se ci rispondono magari capiamo perché non ci arrivano le telefonate da loro, visto che non riesco a capirlo. Abbiamo qualche sms però al quale possiamo comunque dare visibilità. Qualcuno dice esiste una via di mezzo, non se no saremo tutti fondamentalisti, però in questo caso quando il punto fondamentale è non toccare nulla che è prodotto comunque dal regno animale, secondo me non esiste via di mezzo. Forse il motivo di interesse e di attenzione al mondo vegan che non lo ammette via di mezzo, esiste l'esserlo a metà. Silvia, buongiorno. Silvia? Ecco Silvia, pronto? Eccola. Sì, buongiorno. Sì, ecco, la sto ascoltando. Allora, dicevo che per me non ci sono regole, perché quando prende la fame, la smania di fame, non ci possono essere delle restrizioni, non questo, non quello. E quindi bisogna mangiare. Lei non si è mai posta un problema, diciamo, di limitazione mirata e selettiva di quello che mangia? Beh, una ricerca sì, attenzione a determinate cose. Però non una scelta ideologica, che non mangio nulla prodotto dal regno animale perché non voglio essere complice allo sfruttamento del regno animale. Questa è la filosofia vegan, sì, ridotta proprio all'osso. No, questo qua non riesco a farlo, mi piacciono troppo tante cose per cui non riesco, ecco. Quindi diciamo il bello è che noi ci possiamo alimentare in maniera sregolata, che il cibo è un compensatore di depressione. Molti mi dicono troviamo depresso fare queste scelte, che non si può mangiare quello che ci piace. Sì, non può rientrare nel mio caso, perché se ci togliamo anche queste cose allora veramente diventa abbastanza triste anche quello. Ma lei mi è capitato di avere amici o persone o frequentatori che in realtà fossero molto rigorosi nella scelta del cibo, avere a pranzo, a cena una persona vegan? Per fortuna no, fare per attenzione. Fortuna no. Sarebbe limitativo, sarebbe imbarazzante, va bene così, insomma, ecco. Non è... Va bene, la cosa da sottolineare è che se si fa una scelta del genere diventa una scelta di vita, diventa fondamentale. La cura selettiva della propria alimentazione diventa una delle operazioni più frequenti nel corso della giornata, anche perché il resto del mondo non si pone questo problema. Quindi, siccome il cibo è anche socialità, se si vuole socializzare, naturalmente bisogna mangiare con persone che non hanno questo tipo di attenzione. È un'analisi importante quella che viene fatta, sicuramente sociologica, di produttività, che implica varie cose, però non è facile, quindi diventerebbe un lavoro. Ah, bene, esattamente, può essere un lavoro. 800240024. Il percorso si è evoluto sempre verso un fruttarismo stretto magari. Dopo quei mesi in cui mangiavo praticamente quasi tutti i tipi di frutta, dopo un po' ho iniziato naturalmente, molto naturalmente, spontaneamente, a togliere man mano dei frutti, quindi le arance, magari i kiwi, la frutta un pochettino che era un po' più acida mi iniziava a dare fastidio. Sono arrivata finalmente all'estate, e dove ho tolto anche i fruttortaggi, sempre in modo molto molto spontaneo, e sono arrivata a mangiare la frutta dolce e succosa dell'estate, in particolare i meloni e le angurie. In quel periodo mi ricordo di aver avuto davvero una grande dipendenza dalle angurie e i meloni, e così praticamente ho passato anche tutta l'estate. Una grande colite insistente, secondo me, perché mangiare soltanto frutta, sì, ma adesso non voglio entrare, questo è più territorio Nicoletta Carbonesco, però per incontro, per sentito dire, per contaminazione, i fruttiani, i fruttariani, quelli che fanno la dieta alcalina, esistono delle maniere per impegnare la giornata, e probabilmente questo è anche utile, perché evidentemente si dà una qualità al proprio tempo, cercando di andare nella vastissima e ampia possibilità di scegliere alimenti alla ricerca di quelli che sono più adatti a seguire la propria alimentazione, quando l'alimentarsi non è più solamente rispondere a una necessità di sopravvivenza o di dare un minimo di possibilità al proprio piacere dell'alimentazione, è in fondo un'attività anche gratificante quando si mangia bene. E poi il mangiare, naturalmente, è il luogo principe di ogni socializzazione. Il primo strumento, che trovo orrendo e trovo antitetico al mio modo di pensare, di seduzione, è invitare una persona a cena. Mi ha invitato a cena, cosa succederà? E si va via con le epilazioni, con le profumazioni, con le vestizioni, con gli smutandamenti. Perché? Perché si sa che un uomo che ti invita a cena, naturalmente nella fase gastrica ci sarà un tentativo di approccio seduttivo. Dania, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Allora, io non sono né vegana né vegetariana, sono stata vegetariana circa 6 mesi, poi sono tornata sulla mia scelta. E perché di questa scelta? Perché avevo il babbo cacciatore. No, perché per 6 mesi hai fatto vegetariana? Appunto, avevo il babbo cacciatore e non ero d'accordo nella sua scelta. Allora lui un giorno mi disse: d'accordo, perché a te la caccia non piace, perché anche il maialino, il pollo, il coniglio, cioè, vengono uccisi. E quindi allora per fargli vedere... Tu trovavi criminale solo l'uccelletto, poverino. Sì, solo gli animali che fanno parte della caccia. E allora decisi di diventare vegetariana, però sono tornata sulla decisione di fronte alle lasagne e a una grigliata di maiale. Grazie Dania. Allora Dania è una che ha ceduto, ma soltanto per un istante, poi è ritornata nuovamente alla sua pratica. Marina, buongiorno. Sì, buongiorno. Volevo dire che naturalmente io sono vegana da 4 anni, ho fatto una scelta etica. Ecco, dammi là una risposta, qua che va avanti. Può esistere il vegano a metà o il semivegano, come ha detto l'ascoltatore prima? Secondo me no. Se è per scelta di salute, certo, perché per scelta salutistica tutti quanti noi possiamo mangiare determinate cose e qualche volta mangiare anche una cosa che fa male. Se ma il pesce proprio. Scelta di salute può esistere, ma è la scelta etica, quando si sceglie eticamente no. Non può esistere, perché il pesce è un essere vivente come tutti gli altri. Quindi è una scelta che va oltre, è metafisica come scelta, diciamo. Non è una scelta, anzi è una scelta molto fisica, non è una scelta metafisica, perché in realtà quando si mangia un altro animale si sta mangiando un animale. Ma il miele, il latte non è un animale. Il miele non è un animale, però purtroppo viene prodotto anche questo, soprattutto a livello industriale, con la sofferenza delle api, perché alla perugina vengono tagliate le ali per togliere il miele dall'alveare, le api vengono affumicate, mandate in un altro tipo di spazio. Però io, se trovo un favo abbandonato, posso prendermi un po' di miele? Non ho capito. Se trovo un favo abbandonato attaccato a un albero con le api, me ne posso prendere un pochino? Beh, come fanno gli orsi, certo che lo può prendere. Ah, allora è solo una questione di metodo, è molto chiaro. Mi dispiace che siamo arrivati alla sigla, ma ritornerò su questo argomento. Mi ha chiarito intanto il fatto del miele l'ascoltatrice Marina, cosa che non capivo. A domani.